I'm gonna miss Eliza. I'm gonna go to Mississippi. Mississippi. I'm gonna miss Eliza. Miss Eliza, Mississippi. I'm gonna miss. Ma Mississippi, cioè ti manca Sissippi e ti manca Eliza, non ho mai capito. I'm gonna miss Eliza. Eh? I'm gonna go to Mississippi. To Mississippi. Ed è un film. Chi indovina che film vince questo? Credo asilo. Io non capisco tutte ste polemiche sulla Melandri. Ma come non le capisci? Non dai. Le capisco, tutti a darle addosso. Povera donna, cosa avrà mai fatto di male la Melandri? Diciamo, Kappa, che è stata scelta a fare una cosa che forse non è detto che sappia fare. Ma non è detto, però se non ci prova, scusa. Poi comunque è un momento così. Appena i politici fanno una minima mossa, scatta subito l'ondata di indignazione, quindi devono stare molto attenti. Ho capito, ma ho anche sentito dire che la Melandri è troppo vecchia. Ma non è che è vecchia in quel senso lì, è che per una cosa come il Maxi ci voleva forse qualcuno che non fosse già conosciuto per aver fatto sempre tutt'altro, in quel senso forse vecchia. Cioè allora che... scusa, Fiona May va bene per la fetta al latte, la Melandri non va bene per il Kinder Maxi. Non so. Ma mi spieghi certi favoritismi? Perché nera va protetta dal razzismo, giustamente, però scusa, allora si diventa razzisti al contrario. Forse hai ragione. Stasera è Santoro Night, però mi sa che già era già cominciato la settimana scorsa, ce lo siamo persi. In ma maniera... perché io giovedì faccio ho il calcetto. Sì, è vero, lo sappiamo. Quindi a te tocca servirti. Ma io giovedì ho altro da fare. Lo so. C'ho il calcetto. So. Quindi a te invece tocca assorbirti il nuovo servizio pubblico. Vabbè, allora, sei contento? Stasera, sì, stasera seguirò con attenzione per capire che differenza c'è tra Santoro e Formigli. Perché ho il sospetto che la differenza sia poca. D'altra parte, il povero Formigli un po' mi fa pena. Cosa perché? Dici? Mettiti nei suoi panni. Ha mollato Santoro quando Santoro è stato mandato via dalla Rai e gli hanno dato la prima serata del giovedì. Anzi, la prima serata del giovedì. Nel frattempo Santoro arrancava sui network sfigati tipo Tele Lombardia, Telenova, eccetera. Poi dopo appena un anno, tac, gli si è materializzato Santoro lì a Formigli. E non è che Santoro danno il martedì sera, per dire, no, il martedì c'è SOS Tata, è intoccabile. Ah già. Beh, quindi al Santoro cosa danno? Al Santoro danno il giovedì sera. Al Santoro. Ma ci sono già io? Dice Formigli. E vabbè, vi alternate. Ma come? Dice Formigli. Sì, prima tu, poi lui, poi di nuovo tu, poi forse di nuovo lui anche, no? Ma come? Ma per quanti mesi? Dice Formigli. Dipende dagli ascolti. Aiam. Pensa Formigli. Se Santoro va meglio di te, tu sparisci per sempre. Facciamo piazza pulita. No, senza di me non potete fare piazza pulita. Dice Formigli. No, facciamo proprio piazza pulita di te e della tua redazione. Ma sono cose brutte, però. Chissà che ansia Formigli. E quest'anno ha anche cambiato la camicia. Hai visto? Da blu a bianca. Infatti, si vedono meno le pezzature. E pezza pulita. Aspetta. Qua. Contando. Quanti cuori ci sono? Contali. Tre. Benissimo. Ci sono tre cuori. Quanti rettangoli ci sono? Quattro. Benissimo. Ci sono quattro cuori rettangoli. Quanti rettangoli ci sono? No. Quattro. Prova ancora. Quanti quangoli ci sono? Tre. Prova ancora. Quanti ci sono? Uno, due, tre. E cinque. Questa è la risposta esatta. Ci sono cinque. Ma io sta suoneria, ma come si fa a togliere? Adesso, aspetta. Pronto? I'm Julian Assange. No, lei non può parlare con l'esterno, signor Assange. Prento, è dell'ambasciata equadoregna in Londra. Sì, ma cosa fai, Manolito? Strappi il telefono dalle mani di Julian Assange. Almeno parlavamo. Signor Assange non può parlare con personas. Con? Con personas, con nessuno, come dire in Italia. Nessuno. Sta proibito di comunicare con l'esterno. Altrimenti la CIA se infila a EPR. a spiare. Eh beh, il lavoro della CIA è spiare, Manolito, non è che lo fanno in segreto. Cioè, lo fanno in segreto, perché in teoria è tutto segreto, ma alla fine lo sai che la CIA ti spia. La CIA ti spia, Italien, però è l'ambassador, se incassa tantissimo quando una potenza straniera e pia l'Ecuador. Ma ci credo, Manolito, comunque, allora... facciamo così, tu chiedi al signor Assange cosa voleva dirci, almeno facciamo una telefonata un po' sensata. Assange, no, sta scrivendo un libro di quanto informazione su internet e chiederia avere la pubblicità gratuita della vostra trasmissione radiofonica. Noi non parliamo di libri, Manolito, mi spiace, devi chiamare qualche altra emittente, qualche altra radio. Bene, allora abbiamo finito. Ma allora... quanto tempo ancora tengo del rimanere qui? Ma che ne so, ma io non lo so, immagina, puoi. Non comprendo. Te ne andrai quando si risolverà la questione di Julian Assange chiuso nella vostra ambasciata, no? È chiaro. Io non comprendo chi è che me l'ha inviata questa maledizione di Dio, emperador della Francia orientale. Io non hai nunca fatto niente di male. E mirami a chi ora è clavo di un australiano al vino pieno di balas e di pretensias, Maronna do Carmine. Signora Assange, arrivo. Adios, amico. Ciao, adios. Manolito, ciao. È clabo di un australiano, tu comprendi? È clabo. Tra un anno saremo punto e capo. A tagliare così sono capaci anche i bambini. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancora più vecchio, che sei ancora più vecchio. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. Le persone che chiedono asilo nido vengono sottoposte ad un esame che deve accertare se fuggono da situazioni di non libertà per loro pericolose, e allora diamo il diritto di asilo. Vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancora più vecchio, che sei ancora più vecchio. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. Chiedo asilo! Mancano 50 giorni alla fine del mondo. 50 giorni, vabbè, siamo arrivati al giro di boa, come si dice. Avevamo cominciato a contare i giorni, avevamo cominciato però a 100, quando ne mancavano 100. Adesso siamo arrivati giorno dopo giorno a meno 50 giorni. Quindi affrettatevi a votare il vostro personaggio preferito. Vi chiedo asilo sulla nostra pagina Facebook. Sì. Come? Perché poi a forza di rimandare finisce il mondo, Drago, non hanno più tempo per partecipare, devono farlo oggi, adesso, subito. Allora, stasera si può fare invitare la gente a guardare una trasmissione televisiva dove c'è K? Possiamo, sì. Allora, X Factor, c'è K, fa il vocal coach, non si può? No, interesse privato. Io invece me lo guardo, ma tanto poi non hanno fatto la legge sul conflitto di interesse. Esatto, quindi che te frega, io me lo guardo poi venerdì da un amico, quindi stasera devo vedere Santoro, quindi... Ma ancora Santoro, ma sei ossessionato. Allora, siamo o non siamo a Chiedo Asilo? Sì, vabbè, cosa c'è? Quei programmi lì sono quelli a più alto grado di infantilismo e non posso esimermi dal guardarli. Dal punto di vista professionale, devo guardarli. No, sprechi il tuo tempo. Ma come? Quei bei litigi di una volta, sai, quelli che Santoro aspettava con Scarpa, tutti, esatto. Il Travaglio. Non li fanno più. Adesso è venuta di moda la serietà, la sobrietà. Sono tutti diventati delle persone serie. Sai, le persone serie. Le persone serie sono tutte qui. Cioè, siamo io e K le persone serie. Tutte qui all'asilo. Quindi ascoltateci tutti i giorni. Diteci di sì. E non mandate le mail al direttore lamentandovi che facciamo i bambini. Siamo bambini.